In un corteo mille voci volano su, lasso nel cielo colore di lilla. Son le parole, le preghiere di una città, i desideri di un po' di umanità. Misteriosamente tu con il pensiero vai verso l'inquietudine che dalla vita vuoi. Cerchi di sfuggire la realtà, oggi pochi dubbi ma domani chissà. La bianca vela che leggera sventola già, spazzando via ricordi di ogni età. Dalla mia riva si allontana sempre di più, solo un gabbiano sa quando tornerà. Sensazioni uniche con gran voracità, briglia sciolta femmine con gran golosità. Quello che vorrai su te cadrà e la giostra si ripeterà. Gira la giostra e cercando la libertà, gira la vita e con la vita gira la folla, il mondo che ha. Sei imprevedibile per le pazzie che fai, giochi per nascondere le tue qualità. Fascino ne hai a volontà, con lo sguardo afferri le tue prede. Accuratamente tue certe fantasie, nate dall'onirico tuo mondo di bugie. La pigrizia è la tua regina, il pensiero vagabondo è il re. Sei l'artista abile o sei il poeta in frac, o l'aedo pazzo che più non canterà. Un bambino che non ha età, giochi con la tua genialità. Fattucchiere abile o forse la Fontaine, sei Madame Bovary oppure il grande Croc. Un boccaccio sei o sei Visnu, tutto questo guido mio sei tu. Se una donna e femmina capisce che c'è in te la natura duplice di un maschio e di un bebè, ti amerà perciò di più e noi ti vogliamo bene come sei.